la danza de locas. Come le stoffe di biella, anche la musica bella, varca la nostra frontiera e con marca straniera ritorna qua giù. Tutte le frasi d'amore che ci cantarono in cuore l'hanno adattate e ridotte a mascisce, a costrotte, a carioca laggiù. Carioca è la danza dell'oca, l'ha inventata una cuoca trasferita agli filì. Carioca è una danza che infoca chi ha la pelle di foca, può ballare così. È la danza nuova che ci consola, che fa stancare il piede e seccar la gola. Carioca è la danza dell'oca, l'ha inventata una cuoca che dimora il piede. Ovunque si balla, regna il trombone con palla, niente più flauti e legni non sono più degni di farsi sentir. Questa è la danza più allegra, questa è la danza che strega, danza dal ritmo negro che sempre più negro diventa ogni dì. Carioca, il mio labbro ti invoca, il tuo cuore si loca, me lo voglio abitare. Carioca, a che gioco si gioca, del colore del moca tu mi fai diventare. Questa è la danza nuova che fa furore, danza che fa impazzire quel suo rumore. Carioca, ho mangiato tapioca, ho la voce un po' fioca e non posso ballare. Preferisco quell'oca che ti balla così. È la danza dell'oca.